Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tommaso Ragno legge Camera con vista, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Marcella Bonsanti. Il signor Bibb si sentì in dovere di assistere Freddy e, incamminatosi per primo, infilò l'uscio e si inoltrò nella pineta. «Stupendo! Stupendo!» Per un po' li inseguì la voce del signor Emerson, che dispensava auguri e filosofia. Quando tacque, udirono soltanto il buon vento che agitava le felci e i rami degli alberi. Il signor Bibb, che sapeva essere silenzioso ma che non tollerava il silenzio, si vide costretto a chiacchierare, dato che la spedizione minacciava di risolversi in un fiasco e che nessuno dei suoi compagni appariva disposto a pronunciare una sillaba. Parlò di Firenze. Giorgio seguì gravemente il discorso, assentendo o dissentendo con gesti brevi ma risoluti, inesplicabili come i movimenti delle cime degli alberi sopra le loro teste. E che lei abbia conosciuto il signor Weiss. Che strana coincidenza! Si rendeva conto che da queste parti avrebbe ritrovato la pensione Bertolini al completo. No, davvero, me lo disse la signorina Levish. Da giovane ebbi a lungo l'intenzione di scrivere una storia delle coincidenze. Non ci fu ombra d'entusiasmo, benché effettivamente le coincidenze siano molto più rare di quanto non crediamo. Per esempio, basta rifletterci su un momento per scoprire che se ora lei è qui, non lo si deve a pura combinazione. Con sollievo del signor Bibb, George si mise a parlare. «Mica vero. Ci ho riflettuto. Lo si deve al fato. Tutto si deve al fato. È il fato che ci getta l'uno addosso all'altro e ci unisce. È il fato che ci distacca. Ci unisce, ci distacca. Siamo soffiati dai 12 venti. Noi non predisponiamo nulla». «Lei non ha riflettuto per niente», sbottò il reverendo. «Permetta che le dia un suggerimento utile, Emerson. Non attribuisca alcuna cosa al fato. Non dica, qui io non c'entro, perché ci sono 10 probabilità contro una che c'entri proprio lei. Risponda alle seguenti domande. Dove ha visto per la prima volta la signorina Honeychurch e me? In Italia. E dove ha conosciuto il signor Weiss che sta per sposare la signorina Honeychurch? Alla National Gallery». Mentre stava esaminando l'arte italiana. Eccola servito. E poi parla di coincidenze e di fato. È naturale che lei vada in cerca di cose italiane e che noi e i nostri amici facciamo altrettanto. Questo restringe incommensurabilmente il campo e nel suo ambito torniamo a incontrarci. Si deve al fato che io mi trovi qui, ripeté caparbiamente George. Ma lei è padrone di chiamarlo Italia, se le sembra più comodo. Il signor Bibb si affrettò a scansare un argomento trattato così pesantemente, ma era di una tolleranza infinita verso la gioventù e non aveva nessuna voglia di mortificare George. «Eccoci arrivati!» annunciò Freddy. «Ah, meno male!» esclamò il signor Bibb asciugandosi la fronte. «Il laghetto è laggiù! Mi dispiace che non sia più grande!» continuò Freddy in tono di scusa. Discesero per un argine sdrucciolevole cosparso di aghi di pino. In fondo c'era il laghetto, incastonato nella sua piccola alpe di verde, un lago in miniatura, ma abbastanza ampio da contenere il corpo umano e abbastanza puro da riflettere il cielo. A causa della pioggia le acque avevano inondato l'erba circostante che risaltava come un bel viottolo smeraldino, tentando i piedi ad andare verso il liquido specchio centrale. «È un vero gioiello nel suo genere», disse il signor Bibb. «Non ha nessun bisogno di scuse». Giorgio si mise a sedere dove il suolo era asciutto e si slacciò cupamente gli stivali. «Non sono splendide queste masse di salcerella. Mi piacciono tanto le spighe della salcerella. E come si chiama questa pianta aromatica?» Nessuno lo sapeva né mostrò di curarsene. «Questi bruschi cambiamenti di vegetazione, eriche, felci, mirtilli, pini, che incanto, che incanto!» «Signor Bibb!» domandò Freddy mentre si spogliava. «Non lo fa il bagno, lei?» Il signor Bibb rispose che non ne aveva l'intenzione. «L'acqua è una meraviglia!» gridò Freddy e vi entrò caracollando. «L'acqua è acqua!» mormorò George. Bagnatosi prima i capelli, un segno infallibile di apatia, seguì Freddy nel divino elemento, indifferente come se fosse stato una statua e il laghetto una secchia disaponata. Il signor Bibb, che aveva un gran caldo e che era sempre pronto ad accontentare il prossimo non appena gli fosse possibile, Si guardò intorno. Non scoprì parrocchiani di sorta, ad eccezione dei pini che svettavano da ogni parte, gesticolando l'uno verso l'altro contro lo sfondo turchino. Stupendo! Acqua, cielo, sempreverdi, la brezza. Queste cose, neppure le stagioni possono toccarle. E non è certo che sfuggano l'intrusione dell'uomo? Già che ci sono, mi laverò anch'io. E di lì a poco gli abiti del signor Bibb componevano un terzo mucchietto sopra le zolle, mentre lui pure confermava la meraviglia dell'acqua. Era acqua comune e nemmeno abbondante. E poi, come ebbe a dire Freddy, si aveva l'impressione di nuotare nell'insalata. I tre valentuomini ruotavano nel piccolo lago immersi fino al petto, alla maniera delle ninfe nel crepuscolo degli dèi. Ma vuoi perché le piogge gli avevano impartito una freschezza, vuoi perché il sole emanava un tepore incomparabile, vuoi infine perché due di quei valentuomini erano giovani d'anni e il terzo era giovane di spirito, per un qualche motivo imprecisabile si produsse in tutti e tre un cambiamento e dimenticarono l'Italia, la botanica e il fato. Si misero a scherzare. Il signor Bibb e Freddy si spruzzarono l'un l'altro. Con un minimo di deferenza spruzzarono George. George li lasciò fare. Temettero di averlo offeso. Dopo si scatenarono tutte le forze della giovinezza. George sorrise, si gettò addosso ai due, li spruzzò, li sommerse, li prese a calci, li coprì di melma e li cacciò fuori dall'acqua. «Attenti al mio orologio!» gridò il signor Bibb. «Gli abiti volavano da tutte le parti! Attenti al mio cappello! No, no, no, no, adesso basta, Freddy! Vestitevi su! No, no, ho detto!» Ma i due giovani deliravano, guizzarono via in mezzo agli alberi. Freddy con un gilet clericale sotto il braccio, George con una nobbia a tese larghe sui capelli grondanti. «Finiamola!» urlò il signor Bibb, ricordandosi che dopo tutto si trovava nella propria parrocchia. Poi la sua voce cambiò come se ciascun pino fosse stato un diacono rurale. «Alto là, smettetela! Vedo gente che arriva, ragazzacci!» Strilli e cerchi dilaganti sul suolo macchiettato. «Alto là, ci sono delle donne!» Né George né Freddy erano veramente raffinati. Tuttavia, non udirono l'ultimo avvertimento del signor Bibb, altrimenti avrebbero evitato la signora Hanechurch, Cecil e Lucy che andavano a fare visita alla vecchia signora Butterworth. Freddy lasciò cadere il gilet ai loro piedi e si tuffò in un folto di felci. George muggì in faccia ai nuovi venuti, si volse e schizzò giù per il viottolo verso il laghetto, sempre fregiandosi del cappello del signor Bibb. «Santi numi!» gridò la signora Hanechurch. «Chi erano mai quelle disgraziate persone? Oh, miei cari, guardate da un'altra parte, e c'è il povero signor Bibb anche! Ma cosa sarà successo?» «Seguitemi immediatamente per di qua», ordinò Cecil, che si sentiva sempre in dovere di dirigere le donne, benché non sapesse dove, e a proteggerle, benché non sapesse da che cosa. Ora le guidò verso le felci in mezzo alle quali si era nascosto Freddy. «Oh, povero signor Bibb», disse la signora Hanechurch, «ma era suo quel gilet che abbiamo lasciato sul viottolo? Cecil, il gilet del signor Bibb!» «Non è affar nostro», disse Cecil, sbirciando Lucy, tutta presa dall'ombrellino e manifestamente in angustie. «Secondo me il signor Bibb è saltato di nuovo nell'acqua. Per di qua, signora Hanechurch, la prego, per di qua!» Madre e figlia risalirono l'argine dietro a Cecil, tentando di assumere la fisionomia tesa e al tempo stesso noncurante che si addice alle signore in situazioni del genere. «Beh, non posso farci nulla io», disse una voce vicinissima a loro, e Freddy sollevò dalle fronde una faccia lentigginosa e due nive e spalle. «Mica posso lasciarmi calpestare, no? Misericordia, caro, dunque sei tu, che pensate infelice, invece di farti un bel bagno a casa con acqua calda e fredda a volontà. Ascolta, mamma, un poveraccio ha pure bisogno di lavarsi e poi di asciugarsi, e se un altro poveraccio, non dubito che tu abbia ragione, come al solito, caro, ma non sei in grado di discutere. Andiamo, Lucy». Il gruppetto si girò. «Ah, guardate, no, no, no, no, non guardate. Oh, povero signor Bibb, ci mancava anche questa». In quell'attimo, infatti, il signor Bibb stava uscendo carponi dal laghetto, sulla cui superficie galleggiavano indumenti di natura intima, mentre George, quel George che era stanco di vivere, gridava a Freddy che aveva acchiappato un pesce. «E io ne ho inghiottito un altro», rispose l'uomo delle felci. Ho inghiottito un girino. Ecco che si divincola nella mia pancina. Muoio. Emerson, stupidone, si è messo le mie brache. Zitti, cari, disse la signora Honeychurch, alla quale riusciva impossibile continuare a scandalizzarsi. E in primo luogo state attenti ad asciugarvi come si deve. Tutti questi raffreddori capitano sempre a chi trascura di asciugarsi come si deve. Vieni via, mamma, disse Lucy. Oh, per l'amor del cielo, vieni via. Salve, gridò George, cosicché le signore si fermarono nuovamente. Lui si considerava vestito, a piedi nudi, a petto nudo, radioso e prestante sullo sfondo del bosco oscuro, ripeté a gran voce: «Salve, signorina Honeychurch, salve!» «Fa la riverenza, Lucy, sarà meglio. Chi può essere mai? Io gliela faccio!» La signorina Honeychurch fece la riverenza. Quella sera e durante la notte l'acqua non smise di scorrere a valle. L'indomani il laghetto era rimpicciolito fino a riprendere le solite dimensioni e aveva perso tutto il suo splendore. Quante volte Lucy aveva fatto le prove di questa riverenza, di questo incontro, ma le aveva sempre fatte in casa sua e con certi accessori che abbiamo sicuramente il diritto di dare per scontati. Chi avrebbe potuto prevedere che lei e George si sarebbero ritrovati nel pieno della disfatta d'una civiltà, in mezzo a un esercito di giacche, colletti e stivali che giacevano feriti sul terreno assolato? Lei si era immaginata un giovane signor Emerson, probabilmente intimidito, oppure morboso, o indifferente, o furtivamente sfacciato. A tutte queste evenienze era preparata, ma non aveva mai concepito un Emerson felice, che l'avrebbe salutata con l'urlo dell'astro del mattino. Ora, in un'altra casa, mentre prendeva il tè nel salotto della vecchia signora Butterworth, Lucy rifletté che è impossibile prevedere il futuro con un minimo di precisione, che è impossibile fare le prove della vita. Un difetto nello scenario, un volto tra il pubblico, un'irruzione degli spettatori in palcoscenico, ed ecco che tutti i nostri gesti, meticolosamente architettati, non significano nulla o significano troppo. Farò la riverenza, aveva pensato. Non gli darò la mano. Proprio questo sarà il contegno adatto. La riverenza l'aveva fatta, ma a chi? A dei, a eroi, a stupidaggini da scolarette. Aveva fatto la riverenza di là dall'ammasso delle scorie che ingombrano il mondo. Così correvano i pensieri di Lucy mentre le sue facoltà erano impegnate con Cecil durante una delle terribili visite imposte dal fidanzamento. «Lucy», disse sua madre dopo che furono tornate a casa, «che cosa ha Cecil? Non sta bene?» La domanda non prometteva niente di buono. Fino a quel momento la signora Honeychurch si era mostrata caritatevole e discreta. «No, non credo, mamma. Cecil sta benissimo. Forse sarà stanco?» Lucy venne a un compromesso. Forse Cecil era un po' stanco. «Da quando Cecil è tornato da Londra, sembra che niente gli vada a genio. Basta che io apra bocca e subito trasalisce, me ne accorgo, Lucy. È inutile che cerchi di contraddirmi. Lo so da me che non sono un intellettuale, che non mi intendo di arte, né di letteratura, né di musica, ma non posso farci nulla se i mobili del salotto sono quelli che sono. Li comprò tuo padre e noi dobbiamo tenerceli, con o senza il beneplacito di Cecil». «Già, io ti capisco, e Cecil non dovrebbe certamente comportarsi così. Ma non intende mancare di rispetto. Una volta me l'ha spiegato. Sono le cose che lo turbano. È facile lasciarsi turbare dalle cose brutte. Non è incivile con le persone». «Quando Freddy canta, è una cosa o una persona?» «Non si può pretendere che chi è dotato di un autentico temperamento musicale si diverta ad ascoltare le canzonette come facciamo noi. E allora perché non è uscito dalla stanza? Perché contorcersi e sogghignare e sciupare il piacere di tutti gli altri?» «Non dobbiamo essere ingiusti verso il prossimo», obiettò Lucy impappinandosi. Qualcosa l'aveva snervata, e non c'era verso che la difesa di Cecil, che a Londra era riuscita a trattare così magistralmente, assumesse una forma efficace. Era avvenuto uno scontro fra le due civiltà. Cecil aveva lasciato capire che forse sarebbe successo, e lei era stordita e abbagliata, come se l'irradiazione che emana da tutte le civiltà le avesse tolto la luce degli occhi. Buon gusto, cattivo gusto, altro non erano che luoghi comuni, indumenti di taglio diverso, e la musica stessa si dissolveva in un fruscio tra i pini dove il canto è indistinguibile dalla canzonetta. Lucy rimase in grande imbarazzo mentre la signora Honeychurch si cambiava per il pranzo. Di quando in quando diceva una parola e non migliorava la situazione. Inutile nascondere la realtà. Cecil aveva deciso di essere altezzoso e ci era riuscito. E lei, chissà perché, deplorava che quel guaio non fosse capitato in un altro momento qualsiasi. «Ehi, Lucy!» disse Freddy che saliva le scale balzellando. «Quei due sono gente di prim'ordine, sai. Mi hai fatto scappare la pazienza, caro bambino. Niente ti autorizzava a portarli a bagnarsi nel lago sacro. È un posto troppo frequentato. Per te era naturale, ma per tutti gli altri è stato enormemente imbarazzante. Devi essere più prudente. Senti un po', abbiamo nulla di speciale in vista per domani? No, che io sappia. Allora voglio invitare gli Emerson al tennis della domenica. O se fossi in te non lo farei, Freddy. Non è assolutamente il caso di invitarli dopo tutto lo scompiglio che c'è stato. Trovi forse da ridire sul campo? Loro non baderanno a un paio di gobbe nel terreno, e poi ho ordinato le palle nuove. Ti ripeto che è meglio di no. Dico sul serio. Freddy afferrò la sorella per i gomiti e la costrinse scherzosamente a ballare nel corridoio. Lucy finse di non curarsene, ma si trattenne a fatica dallo strillare per la collera. Si pranzava alle 7:30. Freddy borbottò una preghiera. Tutti presero posto sulle sedie massicce e il pasto ebbe inizio. Per fortuna gli uomini avevano fame. Nulla d'infausto accadde fino al dolce. Quando Freddy chiese, «Lucy, com'è Emerson?» «Lo vidi a Firenze», disse Lucy, sperando che quelle parole potessero passare per una risposta. «È un cervello fino o semplicemente un buon diavolo? Domandalo a Cecil, è stato lui a portarlo qui». «È un cervello fino, proprio come me», disse Cecil. Freddy gli lanciò un'occhiata dubbiosa. «Li frequentavi molto, quei due, alla pensione Bertolini?» domandò la signora Honeychurch. «Oh no, pochissimo. Charlotte li frequentava anche meno di me». «A proposito, mi fai tornare in mente, non mi hai poi detto di che parla Charlotte nella sua lettera?» «Ma del più e del meno», disse Lucy, chiedendosi se sarebbe arrivata in fondo al pranzo senza dover ricorrere a una bugia. «Come sta nostra cugina?» «Era una lettera insulsa, l'ho strappata. Ma Charlotte non diceva nulla della sua salute? Si capiva dal tono se era di buon umore?» «Oh sì, mi sembra... cioè, no, non mi è sembrato che fosse di ottimo umore». «Allora possiamo stare sicuri che dipende proprio dalla caldaia. Lo so per esperienza come è assillante il problema dell'acqua. Preferirei qualunque altra cosa, perfino la disgrazia di un arrosto immangiabile». Cecil si mise la mano sugli occhi. «Anch'io», asserì Freddy spalleggiando sua madre, spalleggiando lo spirito piuttosto che la sostanza della sua affermazione. «E poi», soggiunse la signora Honeychurch con un certo nervosismo, «ho pensato che la prossima settimana potremmo indubbiamente riservare un cantuccio a Charlotte e offrirle una vacanza piacevole mentre gli idraulici terminano i lavori a Tunbridge Wells. È tanto di quel tempo che non vedo la povera Charlotte». La prospettiva fu più di quanto i nervi di Lucy fossero in grado di sopportare, e tuttavia non aveva modo di protestare con eccessiva veemenza dopo la bontà che sua madre le aveva dimostrato prima di pranzo. Naturalmente la signorina Bartlett accettò l'invito e, sempre naturalmente, si dichiarò sicura che sarebbe stata di grande impaccio e supplicò che le si desse la peggiore camera disponibile, anche senza vista, un posticino purché sia. E sempre naturalmente, George Emerson poté venire a giocare a tennis la domenica successiva. Lucy affrontò la situazione con audacia, benché, come la maggioranza di tutti noi, affrontasse soltanto la situazione che l'attorniava. Non rivolgeva mai lo sguardo interiormente. Se ogni tanto immagini strane sorgevano dagli abissi, lei le attribuiva ai nervi. Quando Cecil aveva condotto gli Emerson a Summer Street, i suoi nervi erano stati sconvolti. Charlotte avrebbe ravvivato le tinte della passata stoltezza, ed era probabile che i suoi nervi sarebbero stati sconvolti anche da questo. Lucy era nervosa di notte. Allorché ebbe occasione di parlare con George, si rividero quasi immediatamente al rettorato. La voce di lui la turbò profondamente e si augurò di potergli rimanere accanto. Che orrore, se si fosse augurata sul serio di rimanergli accanto. Il desiderio, ben inteso, era dovuto ai nervi, che se la godono a giocarci di questi scherzi maligni. Un giorno Lucy aveva sofferto di cose che non provenivano da nulla e di cui le sfuggiva il significato. Ora, in un pomeriggio piovoso, Cecil le aveva spiegato la psicologia e diventava possibile disperdere tutti gli affanni della giovinezza in un mondo ignoto. Secondo il lettore è fin troppo ovvio concludere: Lucy ama il giovane Emerson. Un lettore nei panni di Lucy non lo troverebbe tanto ovvio. È facile fare la cronaca della vita, ma è sconcertante interpretarla, e ricorriamo con sollievo ai nervi o a qualsiasi altra formuletta adatta a palliare il nostro desiderio personale. Lucy amava Cecil. George la innervosiva. Se la sentirebbe il lettore di spiegarle che bisognerebbe invertire i termini delle proposizioni? Tommaso Ragno ha letto Camera con vista di Edward Morgan Forster, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it.